Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori a questa puntata dedicata ai libri di economia. Oggi parliamo strettamente di economia pubblica, dei conti dello Stato e lo facciamo con il rapporto 2009 sulla finanza pubblica a cura di Alberto Zanardi e Maria Cecilia Guerra. Buongiorno professoressa Guerra. Buongiorno. Maria Cecilia Guerra insegna scienza delle finanze all'Università di Modena e Reggio Emilia ed è tra i fondatori del Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche. È un centro appunto che realizza questo rapporto, anzi questi rapporti, perché professoressa Guerra è l'ennesimo, possiamo dire, rapporto sull'economia pubblica che ormai ogni anno vengono realizzati. Certo, questo rapporto ha una storia molto lunga, inizia alla fine degli anni Ottanta, curato dal professor Bernardi dell'Università di Pavia e soltanto nel 2003 passa al coordinamento mio e di Zanardi. Esce ogni anno proprio perché ha la funzione in primis, come prima funzione, quella di monitorare anno per anno le principali politiche che hanno rilevanza per la finanza pubblica italiana, quindi è uno strumento che vuole essere utile per gli studiosi ma anche per coloro che magari non si ricordano esattamente cosa è successo, che so, sulla sanità, sull'istruzione, sulle pensioni due anni fa, l'altro anno eccetera, e possono, avendo la serie completa, ricostruire i passaggi cruciali, le scelte compiute da diversi governi nei diversi momenti storici. Ecco, questo rapporto è edito dal Mulino nella collana Studi e Ricerche e quest'anno si divide in due parti. La prima parte è il monitoraggio delle politiche pubbliche, in cui si passa in rassegna appunto i punti principali della politica della spesa e dell'entrata sul fronte pubblico, quindi con la previdenza, l'assistenza, la sanità, l'istruzione e anche la politica fiscale per quanto riguarda le entrate. E la seconda parte guarda un po' in avanti sull'attuazione di quel federalismo fiscale che è un po' come l'arabe fenice, che ci sia, ciascuno lo dice, come sarà nessuno ancora lo sa, e quindi questi contributi cercano di mettere a fuoco come sarà il federalismo fiscale. Ma io direi cominciamo dal monitoraggio delle politiche pubbliche. Cosa esce? Ecco, ricordiamo che, se ce ne fosse bisogno, che siamo in un momento di particolare crisi finanziaria ed economica. Qual è sinteticamente la pagella della politica pubblica sulla finanza pubblica in questo periodo, professoressa Guerra? Ah, guardi, il rapporto è uscito in un momento molto particolare perché, avendo come anno di riferimento, diciamo, dal giugno 2008 fino a marzo 2009, la finanza pubblica ha attraversato due periodi molto diversi in questo periodo monitorato, cioè da una parte la prima fase, i primi mesi del nuovo governo con la manovra finanziaria triennale, che è stata salutata come un'innovazione molto importante ed è indubbiamente lo è stato in quanto ha cercato di definire in modo molto preciso i profili finanziari della manovra. Questa manovra viene quindi esaminata secondo le diverse componenti nelle diverse parti che lei ha prima richiamato e si cerca di capire se alla chiara definizione dei profili finanziari ha fatto seguito un'altrettanto chiaramente definizione dei profili attuativi. Questo non è sempre vero, cioè si può vedere che c'è stata continuità sotto il profilo ad esempio delle politiche sanitarie, più difficoltà si stanno incontrando nell'attuazione della manovra prevista sotto il profilo dell'istruzione, probabilmente anche perché non è stata data particolare attenzione ad alcuni aspetti importanti come quello del coordinamento delle diverse istituzioni coinvolte nell'erogazione del servizio. Sotto il profilo della previdenza l'anno non è stato particolarmente ricco di novità, sotto il profilo invece dell'assistenza vengono analizzati nei loro effetti redistributivi ma anche nei loro limiti strumenti importanti come ad esempio la social card e il bonus per le famiglie. Senza dilungarmi troppo, la seconda parte dell'anno invece è stata ovviamente dominata dalla manovra, diciamo, anticrisi, però le due cose vanno viste molto insieme perché bisogna ricordare che l'Italia forse è l'unico tra i grandi paesi che è entrato in recessione con misure che erano di forte contenimento del disavanzo già incorporate nelle legislazioni in essere, quindi si è trovata a dover cercare di inventare una misura anticrisi all'interno di una manovra che è rimasta di segno fortemente restrittivo, come era quella impostata prima dell'estate. Quindi certo, questo sicuramente, unito al fatto che il nostro paese è un paese con un alto debito pubblico e quindi con dei vincoli nelle possibilità di azioni che sono ovviamente oggettivi, ha creato una grossa difficoltà nell'intervento pubblico contro la crisi, che noi esaminiamo sia sotto il profilo della sua quantità che sotto il profilo della sua qualità. Ecco, nella parte che tocca il fisco, la fiscalità, questo rapporto è molto critico. Si parla di un fisco senza bussola, di interventi estemporanei, di frammentarietà e di appunto misure che sono state mini agevolazioni fidelizzate a dare segnali di sensibilità su specifici problemi. Ecco, questo fisco che senza bussola, ancora di più, diciamo, di fronte alla crescita delle difficoltà finanziarie. Guardi, della parte sul fisco sono particolarmente responsabile perché l'ho scritta assieme alla mia coautrice Giannini, e la forte perplessità che noi abbiamo è sotto due profili. Uno, quello che lei sta richiamando, cioè il fatto che per quanto riguarda il profilo anticrisi le manovre sono state molto frammentate e c'è un po' l'idea, che è un po' non solo di questo governo, che ogni problema possa essere risolto con una piccola agevolazione fiscale, ma poi sia molto costo per l'erario e poco risultato effettivo. Spesso le agevolazioni concesse non vengono monitorate, nessuno sa se hanno avuto effettivamente l'efficacia sperata nell'incentivo che si voleva dare. Ma c'è un altro aspetto che noi sottolineiamo e da cui deriva forse ancora più pesantemente il titolo così negativo che lei sta ricordando, e cioè il fatto che sono state sperimentate alcune misure importanti di interventi fortemente discrezionali. Sicuramente un aspetto molto critico, ad esempio, è rappresentato dalla Robin Tax, con cui si è scelto di tassare di più non tutti i settori più profittevoli, questo poteva essere una scelta possibile, ma solo alcuni di questi settori, cioè il settore energetico, banche, assicurazioni, cooperative. Quindi in sostanza un intervento molto discrezionale, che tra l'altro si è rivelato anche sbagliato, perché poi questi settori sono quelli che sono entrati in crisi e non hanno certamente prodotto il gettito che ci si attendeva, ma che secondo noi da studiose mette in crisi il fatto che il sistema fiscale deve essere basato su criteri molto intellegibili, comprensibili, di equità e di efficienza. Se invece il sistema fiscale viene reso flessibile all'uso del momento, un uso molto contingente, molto facilmente se ne perde la fisionomia. Questo è un problema che si porrà con grande rilievo anche per quanto riguarda il federalismo fiscale, perché nel federalismo fiscale avremo la necessità di un fisco da coordinarsi su tanti livelli di governo, quindi Stato, Regioni, Province, Comuni. Se ciascuno di questi enti agisce in modo arbitrario o discrezionale, lei capisce che dopo un anno di applicazione il cittadino si trova esposto ai venti, no? E quindi si trova a dover pagare cose molto diverse, non in relazione ai servizi che ottiene, cosa che ovviamente potrebbe avere una sua giustificazione, ma in relazione a scelte arbitrarie dell'ente in cui abita, che non si coordina in modo sufficiente con la comune, che non si coordina con la provincia, con la regione e con lo Stato. E anche per questo che nella parte del federalismo fiscale è un capitolo che è anche che lei ha scritto e firma, si parla di IRPEF Arlecchino della legge delega, e quindi già in questo c'è qualcosa di critico. Cioè di critico, diciamo, è un segnale d'allarme, perché al momento non è ancora detto, non sappiamo esattamente cosa succederà. La preoccupazione sull'IRPEF è questa: l'IRPEF è ovviamente l'imposta più grande ed è giusto che sia compartecipata, cioè che il gettito sia in parte utilizzato non solo dallo Stato ma anche da altri livelli di governo. Il punto però di difficoltà è che la delega prefigura la possibilità che sull'IRPEF intervengano i vari livelli di governo anche con delle addizionali, cioè con delle imposte su cui gli enti esercitano un po' di discrezionalità. Negli altri paesi federali questa discrezionalità è esercitata soltanto con riferimento all'aliquota, cioè il singolo comune, la singola regione ha un intervallo entro cui far variare l'aliquota a seconda appunto della pressione fiscale che vuole imporre ai suoi cittadini e dei servizi che gli dà in cambio. Nella delega sul federalismo invece si permette anche agli enti territoriali di intervenire non solo sulle aliquote ma anche, ad esempio, sulla struttura della della progressività o sulle detrazioni, sulle deduzioni. Allora la paura, e da qui l'arlecchino molto colorato e molto variegato, è che magari il comune faccia una politica fortemente spinta a favore della famiglia, che so, attraverso l'IRPEF, mentre la regione la fa in un altro senso. E quindi combinando le due cose o le due diverse strutture di progressività si hanno degli esiti assolutamente imprevedibili e probabilmente anche contrari a quelli di chi fa questi interventi. Ecco, professoressa Guerra, dobbiamo concludere per dare un'ultima indicazione. Purtroppo non è che possiamo dire che guardando in avanti ci sarà una riduzione della pressione fiscale. Ma guardi, però questo non è facile da prevedere. Sicuramente la delega fiscale, la delega sul federalismo si preoccupa di questo punto e quindi prevede un forte coordinamento fra i livelli di governo proprio per tenere sotto controllo la pressione fiscale complessiva. Questo è uno dei punti qualificanti di quella delega, che neanche altri, che sono ovviamente esaminati con dettaglio nel nostro rapporto. Io credo però che è giusto preoccuparsi della pressione fiscale, ma è molto importante non perdere di vista il collegamento che ci deve essere fra quello che diamo e quello che riceviamo, certo. Quindi preoccuparsi anche della qualità della spesa pubblica che riceviamo in cambio. E un esame complessivo della spesa pubblica, delle politiche pubbliche, è proprio in questo rapporto 2009 sulla finanza pubblica italiana, ricordo, curato da Maria Cecilia Guerra, che ringrazio, e Alberto Zanardi, per la collana Studio e Ricerche del Mulino, a un costo di 29 euro per 350 pagine, quindi un'analisi completa dello stato dell'arte della finanza pubblica italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito. La linea ora alle notizie sul traffico.